Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue. La stampa, il futuro è quotidiano. Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Solbiati. Auf dem Wasser zu singen e Meere Stille di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e devo dire che sono particolarmente felice di cominciare la mia collaborazione con le lezioni di musica con il Lied Schubertiano. Il Lied Schubertiano che penso sia una delle cose più belle del mondo. Il Lied è stato per Schubert una specie di espressione diretta, c'era un passaggio diretto tra il compositore e la partitura. Questo va al di là dei circa 700 Lieder da lui scritti, perché questo dato sì ci dice molto, soprattutto se paragonato ai 31 anni di vita, ma non ci dice abbastanza. Dice di più ad esempio il fatto che nel 1815, l'anno di composizione del primo Lied che adesso andremo a vedere insieme, e attenzione, l'autore aveva 18 anni, Schubert ha scritto 140 Lieder, e fa ancora più impressione il fatto che, scegliendo una data, ad esempio il 25 agosto, quel giorno ne scrisse 5, il che vuol dire il tempo fisico di scrivere. Questo vuol dire che era un'espressione immediata e diretta dell'animo del compositore. Non fu l'unico giorno in cui scrisse 5 Lieder, ce ne furono parecchi. Io credo che il cuore, o comunque io ho scelto come cuore di quello che dirò sul Lied Schubertiano, il suo rapporto testo-musica, che a mio parere rimane il migliore esempio nella storia della musica. Mi spiego. Da sempre la domanda su perché mettere in musica un testo ci prende, no? Perché farlo? La musica che cosa può fare di più rispetto a un testo? E la musica ha sempre oscillato tra due estremi opposti. Ho avuto un rapporto madrigalistico, cioè dico morte, vado nel grave, dico luce, vado nell'acuto, ed è un rapporto poco interessante, oppure ho avuto dei rapporti di estraneità, penso soprattutto a certi momenti come gli anni 50 del XX secolo, con la paura di esprimere direttamente un testo. Schubert sceglie una meravigliosa via intermedia, cioè sceglie di ogni testo un centro di interesse, un nucleo che era per lui focale di quel testo, e mette la forma, le strutture, le armonie, i percorsi tematici, melodici al servizio di quel nesso, in modo che diventa la sua visione di quel testo. Partiamo direttamente dal primo di questi Lieder. Si chiama Meere Stille, cioè calma di mare, letteralmente, in realtà diciamo pure bonaccia. È stato scritto nel giugno 1815, quindi in realtà aveva poco più di 18 anni. E il testo scelto è un testo importante. Schubert ha di volta in volta lavorato su testi o di autori particolarmente importanti o su testi di poeti amici, in questo caso è Goethe. Ma attenzione, c'è già una scelta. Di questo testo Schubert sceglie solo la prima parte, che è diciamo la parte più tragica. Questo indica già una direzione. Vi leggo il testo, la traduzione del testo naturalmente. Sull'acqua regna una calma profonda, immobile il mare riposa. Trepidante il nocchiero guarda attorno la liscia distesa. Non un soffio, da nessuna parte. Quiete mortale, tremenda. Sulla superficie immensa non si muove neppure un'onda. Sono quattro coppie diversi che hanno al centro il significato, un significato metaforico, simbolico della parola bonaccia. La bonaccia era in realtà il pericolo peggiore per un marinaio, perché dalla tempesta si esce, dalla bonaccia no, perché nella bonaccia si resta fino alla morte se non si riesce ad uscire. E quindi la calma di mare è di fatto un perfetto simbolo di morte. Va ricordato che Schubert non vide mai il mare, perché non uscì mai dall'Austria fondamentalmente. E va anche ricordato che nessun autore quanto lui ha riservato un'attenzione così ampia all'acqua in tutte le sue determinazioni come tema dei Lieder. Ci sono circa 150 Lieder schubertiani in qualche modo centrati sull'acqua, evidentemente un luogo simbolico. Qual è la scelta musicale che effettua in questo Lied? Una scelta assolutamente unica. Chiunque guardi la pagina, è un'unica piccola pagina questo Lied, pensa che sia un esercizio, non capisce. Perché? Perché sono 32 battute e sono 32 accordi di pianoforte, 32 battute in due mezzi e sono 32 semibrevi, 32 accordi in note bianche, insomma, in semibrevi del pianoforte, arpeggiati. Praticamente non è un pianoforte, potrebbero essere gli archi di un'orchestra o, visto l'arpeggiato, potrebbe essere, non so, l'arpa di un cantore. In secondo luogo, l'assoluta staticità dice che c'è una sola dinamica, e cioè un pianissimo messo all'inizio e che dura per tutto il Lied, senza nessuna eccezione. Il registro è sempre lo stesso, ed è tutto medio grave. Questa è la nota più bassa utilizzata, questa è la nota più acuta, ma è molto rara. In realtà tutto gira attorno a una certa nota che ha un certo mi. Dico soltanto questo mi, quindi stiamo parlando della parte esattamente dal centro del pianoforte in giù. Si pensi che dei 32 accordi del pianoforte ben 13 hanno come nota superiore il mi, che diventa una specie di ossessione. L'inizio, ad esempio, è... Su 5 accordi ce ne sono già 4 con la nota superiore mi. E lo stesso vale per la parte vocale. La parte vocale è un'estensione minima, è un'estensione di poco più di un'ottava, ma questo non basta dire quanto sia minima. Fa molta più impressione se vi dico che sulle 60 sillabe del testo, il canto è interamente sillabico, 51 sono chiuse in una sola quinta, nella quinta do sol. Un ambito assolutamente ristretto, cioè un vero e proprio canto parlato. Adesso, data la divisione in 4 periodi del brano che corrispondono ai 4 disti, cioè 4 coppie diverse del testo, ascolteremo un periodo per volta e poi lo commentiamo brevemente. Ascoltiamo l'inizio, le prime 8 battute. Breve commento. Inizio in do maggiore, l'inizio è con una cadenza semplicissima. Ci si potrebbe ricordare il tempo lento dell'opera 7 di Beethoven. Però tenete presente che questo accordo in do maggiore a cui si torna, il lead è in do maggiore, è anche l'ultimo che ci sarà nel lead fino al 32esimo accordo, fino all'ultimo, cioè questo do maggiore, che è evidentemente la calma, la bonaccia, viene abbandonato per sempre e ritorna soltanto alla fine. Ad esempio, il mi melodico con cui finisce il primo periodo è già su un accordo di mi maggiore. Il testo ha soltanto fino adesso detto, esposto la situazione base, cioè che sull'acqua regna una calma profonda, immobile il mare riposa. Ascoltiamo il secondo periodo. Mi maggiore un po' inaspettato, su cui era finito il primo periodo, è già diventato accordo di tensione, cioè la settima insensibile di la minore. Perché? Qui l'adesione al testo è strettissima, segue perfettamente il testo. Il secondo distico inizia con trepidante il nocchiero guarda. Ma che cosa guarda? Attorno la liscia distesa, e sulla liscia distesa si spegne ancora per un momento la tensione, e cioè si arriva a un fa maggiore che sembra aver risolto i problemi. Tra l'altro sulla parola nocchiero c'è il culmine melodico, cioè Der Schiffer. Ma adesso arriva il punto sicuramente culminante del lead, quello, quando dicevo identificazione di un centro di interesse, quello sul quale l'ambiguità calma uguale morte si rivela definitivamente. Ascoltiamo il terzo periodo. Spero di riuscire a farvi capire bene una cosa. Quella calma dell'accordo lento, arpeggiato e tenuto si rivolta ora contro l'ascoltatore, ed è proprio quella calma che si è rivolta contro. Cosa vuol dire? Perché lo sto dicendo? Se io faccio degli accordi lenti che fanno delle cadenze che ben risolvono, mi mantengo nella calma, ma se io improvvisamente con la stessa lentezza inanello 8, perché il periodo è fatto da 8 battute, 8 accordi consecutivi con un peso di tensione, cioè che non risolvono mai, facciamo l'esempio. L'ultimo sembra una risoluzione, ma è un accordo di dominante. Sono 8 accordi consecutivi senza una tonica e con uno spostamento cromatico. Quella calma è diventato il massimo dell'inquietudine. E peraltro il testo ha detto non un soffio da nessuna parte, quiete mortale, tremenda. Dopo, alla fine, dovrò fare un commento su questo todes, su questo mortale, calma mortale, che è il vero cuore del Lied e che ha una proporzione magica e molto particolare. Ma prima di farlo, ascoltiamo anche il quarto e ultimo periodo del Lied. Questa bella risoluzione finale a Do maggiore che avete sentito è, come dicevo prima, l'unico ritorno a Do maggiore. Vale la pena ricordare che fino a 4 battute prima lui è rimasto addirittura in Mi maggiore. Poi con un rapido passaggio a Mi minore, adesso è già Do maggiore e fa semplicemente una cadenza con tanto di ritardo un po' quasi liturgico. Questo Do maggiore, che corrisponde a sulla superficie immensa non si muove neppure un'onda, però porta con sé la consapevolezza che questa fissità è una fissità tragica. E allora a questo punto vi dico l'ultima delle cose, forse la più forte. Questo Lied ho detto che è fatto da 32 battute, però nell'ultimo, o meglio l'ultimo accordo del terzo periodo e l'ultimo accordo A porta una corona, e secondo la interpretazione classica di questo tipo di corona quella battuta vale doppia. Ed è così che il Lied è come se avesse 34 battute. Ora, se noi andiamo a cercare nel terzo periodo, sulla parola todes, mortale, vi è l'unica triade, cioè la triade più lontana di tutte, c'è una triade di fa diesis minore in secondo rivolto. Fa diesis minore, fa diesis, il minore, è la cosa più lontana possibile dal Do maggiore. Do, fa diesis è un tritono, è la nota più lontana, non solo, ma è anche nell'altro modo, cioè il minore. Chiunque conosca un pochettino le meravigliose relazioni di sezione aurea secondo la serie di Fibonacci, 34, il numero delle battute con le due corone aggiunte, è un numero di serie di Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, e la battuta con l'armonia più lontana e con la parola di morte è la 21esima, cioè è esattamente la sezione aurea di questo Lied. Quindi il contorno è un Do maggiore di calma, ma il cuore, la proporzione perfetta, ci dice della morte. Adesso possiamo ascoltare l'intero Lied. Seite. straordinario lead e straordinaria voce di Dietrich Fischer-Dieskau, impareggiabile, forse irraggiungibile. Passiamo subito al secondo dei leader che vi presento oggi, con un carattere completamente diverso, si intitola Auf dem Wasser zu singen. Sono passati 8 anni, Schubert è un maturo, virgolette, compositore 26enne, me ne mancano 5 soltanto alla sua morte, ahimè. Allora, apparentemente questo è un lead così semplice che mi potreste chiedere, beh, perché parlarne? E invece scopriremo che qua il rapporto testo-musica tocca forse uno dei suoi casi più profondi, più segreti, più potenti e anche più spaventosi di, forse di tutta la produzione schubertiana. Intanto il titolo è molto curioso, cioè da cantarsi sulle acque, sembra una specie di Wassermusik, no? come in Handel. Allora, dal punto di vista formale è di una semplicità assoluta, cioè sono 3 strofe di 26 battute e col segno del ritornello neanche si è dato la pena di riscriverle, forse quel giorno ne ha scritti tanti, e quindi sono 3 strofe uguali. Il testo non è un testo così importante, a dirvi tutta la verità in questo momento non mi ricordo, si chiama Stolberg l'autore, ma insomma non lo conosciamo tanto. Vi leggo direttamente la prima strofa del testo e poi ascolteremo la prima strofa, appunto, sapendo che le altre due sono uguali. Però la prima strofa dice: nello scintillio delle onde specchianti scivola come un cigno la barca ondeggiante. Ah, sulle onde dolcemente scintillanti di gioia l'anima scorre come la barca, perché dal cielo, fin giù sulle onde, danza il crepuscolo attorno alla barca. Insomma, una scenetta con un ruscello che scorre e quindi apparentemente nessun problema. Ascoltiamo l'introduzione pianistica e la prima strofa. Ascoltate ora. Questo passaggio in maggiore va ascoltato. Mi è spiaciuto parlare sopra una cosa così bella, ma quel passaggio in maggiore va ascoltato perché è il cuore di questo lead. Allora, perché parlare di questo lead? Ci sono due segnali, due sintomi. Innanzitutto, è evidente qual è la figura base del pianoforte. Questo è anche un lead a figura fissa, pari tiratarataratara, la sestina, con uno slancio iniziale e poi le duine. Molto semplicemente un vero e proprio, in questo caso, madrigalismo, una rappresentazione pittorica del ruscello che scorre, che scende un po' ballonzolante, soltanto con un aspetto in più, cioè la circolarità, con questo slancio che ripiega e continuamente. Questo è il primo sintomo che può inquietare un pochettino. Ma ce n'è un secondo. Per chi conosca il lead schubertiano, si sa che la voce non fa mai o praticamente mai la stessa figura ritmica che fa il pianoforte. Di solito si cammina su due binari paralleli. In questo caso la voce in realtà assomiglia, cioè, e poi alla stessa sestina, pari pira para pa. Però in questo caso cosa succede? Che sulle duine di questa tira tara ta sono a coppie, sono legate, e cioè non cambia la sillaba ad ogni semicroma, sono tutte appoggiature. Per chi conosce la retorica barocca, la duina discendente con l'appoggiatura era in realtà simbolo del patetico, penso al capriccio sopra lontananza del fratello amato di Bach. La duina discendente è il pathos, il patetismo. Ed ecco che ci viene un dubbio: come la stessa figura che è lo scintillio del ruscello discendente, ballonzolante, la stessa figura diventa in realtà il patetico nell'umano, cioè nella voce. Come mai? Lasciamo la domanda aperta. Qual è l'altro elemento misterioso? E mi dico elemento misterioso perché lo può sapere solo chi guarda la partitura, non chi ascolta il lead. Il lead ha l'impostazione tonale di La bemolle maggiore. per chi sa queste cose, ha 4 bemolli in chiave. Eppure, per 18 battute su 26 della strofa, in realtà, accanitamente, Schubert cambia, mette delle alterazioni locali e si comporta completamente in la bemolle, sì, ma in la bemolle minore. Cioè, chiunque ascolti questo lead sente un lead completamente in minore che soltanto all'ultimo momento, quello che vi ho segnalato durante l'ascolto, volge al modo maggiore. La sproporzione è evidente, sono 18 battute contro 8, verrebbe da dire che è molto più normale nella storia della musica allora fare il contrario, cioè impostare le alterazioni in chiave del minore e poi risolvere in modo maggiore alla fine. No, questo è un lead inadeguato che si muove musicalmente in un clima tonale che è diverso da quello impostato, è impostato in la bemolle maggiore e si muove quasi sempre in minore. A questo punto vi devo leggere interamente il testo. Le altre due strofe. La seconda in fondo è simile alla prima. Sopra le cime del boschetto a ponente, il rossastro bagliore ci saluta amichevolmente. Sotto i rami del boschetto a levante, sussurra la canna nel rossastro bagliore. Gioia del cielo e quiete del bosco, respira l'anima nel vermiglio bagliore. Insomma, niente di così importante, evidentemente. Ma arriva la terza strofa. Attenzione. E qui ecco perché l'analogia ruscello-uomo. Perché sono l'immagine l'uno dell'altro. Ahimè, si dissolve su ali di rugiada il mio tempo, sulle onde cullanti. Domani svanirà con ali splendenti, di nuovo il tempo come ieri e oggi. E attenzione agli ultimi due versi, finché con ali più alte e radiose io stesso non sfuggirò al tempo incostante, cioè io stesso morirò. Attenzione, in quale punto capitano questi ultimi due versi nella terza strofa? Nel punto in cui si modula in maggiore. In tutta la storia della musica, quando si parla di morte, si va in minore. In realtà in questo lead succede che tutto il lead si muove in un clima inadeguato, cioè in un minore costruito dentro un maggiore, finché si parla di vita, e la risoluzione serena, la risoluzione, il diventare adeguati all'impostazione è nel momento in cui si parla di morte. Questa inversione tra significato e normale attesa retorica è assolutamente inaspettata, inaspettabile e a suo modo agghiacciante, cioè il punto d'arrivo di tutto è la morte, ma in quella morte è la mia adeguatezza. Il 26enne Schubert sente, è l'anno in cui la sifilide incomincia a farsi sentire nella sua vita, sente la morte come la risoluzione in qualche modo desiderata dell'esperienza del vivere, e questo è un rapporto testo-musica straordinario, perché la strofa per due volte su tre non dà ragione di quel cambiamento tonale finale, ma la terza strofa ne dice la verità, era l'appuntamento col significato profondo che Schubert vuole sottolineare. È arrivato il momento di passare all'ascolto del lead, probabilmente non ci sarà l'ascolto integrale per motivi di tempo, la voce meravigliosa è di Elisabeth Schwarzkopf, per l'ascolto integrale vi rimando al sito di Radio 3. Des westlichen Heides winket uns freundlich der rötliche Schein. Unter den Zweigen des westlichen Heides säuset der Kalbus im rötlichen Schein. Unter den Zweigen des westlichen Heides säuset der Kalbus im rötlichen Schein. Die Seele berührte den Schein. Ach, die Seele berührte den Schein.